il cavallo spalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta qua in là. Soffia il vento gelido, cada l'acqua nevichi, a me che cosa fa? Il cavallo spalpita, i sonagli squillano, schiocchi la frusta in là. Schiocchi la frusta in là.

parti. Mamma cercavo. Debbo parlarti. Qui no, qui no. Dove sei stato? Che vuoi tu dire a Francofonte? Oh, ma dov'è? Santuzza, credimi. Santuzza, credimi. Ma non mentire, ti mi divolgere giù dal sentier. E stamattina all'alba t'hanno scorta presso l'uscio di Lola. Ah, m'hai spiato? No! Giuntor in piazza, non so. Forse è rimasto dal maniscalco, ma non può tardare. E poi sentì tre funzioni in piazza. La Santuzza mi narrava. E gli dicevo che oggi è Pasqua. Thank you. chissà di non aver peccato. Io ringrazio il Signore. Andiamo, qui non abbiamo che fare. Oh, rimanete. Sì, resta, resta, ho da parlarti ancora. Sì, sì, sì, signore, io me ne vado. Thank you. la tua, nammi cura! A te la mala Pasqua! Spirito! Perdono, adessi non perdono, vendetta avrò, vendetta avrò, vendetta avrò, figlia Petra avanti me. Adessi non perdono, adessi non perdono. In odio tutta l'amar mio finì, in odio tutta l'amar mio finì. come loro ve ne andate via senza nemmeno salutare. Vado a casa. Non ho visto compar Alfio. Non ci pensate, verrà in piazza. Intanto amici qua, beviamene un bicchiere. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, mito il fondo del giubilo. Viva il vino spumeggiante, nel bicchiere scintillante, come il riso dell'amante, mito il fondo del giubilo. Viva il vino che sincero e ci ha lieto ogni pensiero e che affoga l'umor nero nell'ebbrezza tenero. compare Turiddu, avete amore suo buono. Ci intenderemo bene a quel che pare. Grazie. tornassi. Perché parli così, figliolo mio? Annulla è il vino che m'ha suggerito.